later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il buio oltre la siepe esiste anche senza la siepe, Kappa e Drago giocano a nascondino. Dai, allora, conti fino a 100, poi mi vieni a cercare. Va bene. Dai. Allora, 1, 2, 3, 4, 75, 84, 97, 98, 99, 100, mi giro. Drago. Ma cosa fai da solo? Eh no, sto cercando K, stiamo giocando a nascondino. A nascondino? Eh sì, a nascondino, è l'ultima spiaggia, credo. Voglio dire, dopo il nascondino non rimane altro che il rogo umano alla Jan Palak. Ok, comunque se decidete di giocare a Jan Palak, e chiamatemi, che vengo a vedere. Jan Palak, il rogo umano! Chicken crap! No, Drago, basta nascondino, dai, sono stufo. Vengo sempre a cercarti nello spogliatoio delle donne, sei sempre lì. Vabbè, ma io non pensavo che tu venissi a cercarmi due volte di fila nello stesso posto. Dai, credevo che statisticamente fosse impossibile. Adesso statisticamente... Ho approfittato. Drago, con te basta pensare a dove ti porta il tuo istinto. Vai sempre lì, o nelle toilette o negli spogliatoi femminili. E meno male che non sono quelli maschili. Beh, sono lì vicino, volendo uno fa anche presto a cambiare, no? Femminile, basta, maschile. Nascondino, per favore, cosa rimane? Palla avvelenata? No, facciamo il mondo. No, dai, il mondo no, non mi è mai piaciuto, non l'ho mai capito. E per forza, come matematica, però salti. I want you. Baby, you have bird flu. I want you. Don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guai te se mi tocchi che magari c'è la diarrea. I want you. Baby you have bird flu. A noi giovani polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you. La fabbrica di polli. Ehi, Pollo, Pollo in sbattimento, da qualche giorno manca l'acqua potabile, dobbiamo comprare le bottigliette, costano un occhio. E beh, allora, e guardate me. Tu sei un uomo azienda, vediamo a te come chiedere alla fabbrica in persona. Sì, ma com'è che cascate male? Perché io l'acqua non la bevo. Ma come non bevi l'acqua? Cosa sarebbe non bevi l'acqua? Vabbè, non bevo l'acqua potabile, no? Bevo quella dello scolo. Ah. La vedete, no? Dei canali lunghi i muri, no? Sì, l'acqua dello scolo, lì. Ecco, quella lì è l'acqua che bevo io. Cioè, quella è buona, fresca, glu, ma è zozza, Pollo, cosa glu. Vabbè, ma io sono attrezzato, no? C'ho gli anticorpi giusti, però, Scusa, tu non la bevi l'acqua del rubinetto, ma noi sì, e come noi credo anche altri, fai qualcosa. E cosa c'entro io? Scusa, se mancasse l'acqua dei canali di scolo, tu cercheresti di risolvere il problema? Se mancasse quella dei canali di scolo, certo, e saprei che da chi andare a tirare qualche orecchio, Vabbè, allora perché non puoi tirare qualche orecchio per farci avere l'acqua potabile del rubinetto? Ma perché io non la bevo mai l'acqua del rubinetto? Pollo rondo, ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come le avventure della cavia da laboratorio. Ah! Salve, sono il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo. Per ottenere udienza è sufficiente inserire il solito gettone di difficile reperibilità nella solita strausata e spanata fessura di altrettanto difficile reperibilità. Fedele, confessa i tuoi peccati senza pudore. Spira. Io fama, uai. Ah, spira. Tu sei il famoso futuro San João da fabbrica. Il pulcino che non mangia ma non muore. Spira. Ma ho fama, uai. Ho capito, ma ti ho già detto in precedenza che tu sarai utile alla chiesa soltanto da morto. Quindi fino a che sei vivo non mi prendo cura di te. Anzi, se vuoi guadagnarti i galloni da santo, continua pure a digiunare. Spira. Ma io ho fama, uai. Ti ripeto che io non sono un distributore automatico di cibi caldi e nemmeno un distributore automatico di cibi freddi. Spira. Sono un confessionale elettrico di prima generazione. Ho i miei anni sul groppone anche io, sai. Perciò vedi di non abusare della mia pazienza e lasciami in pace. L'udienza è terminata. Spira, spira, vai, spira, vai. La fabbrica di polli. Da non crederci, mi hanno detto che è in corso la pratica di beatificazione di João. João? Ma ti rendi conto, João? Beatificazione? Ma sei ancora vivo? Infatti aspettano tutti che muoia per farlo santo subito. Ah. San João da fabbrica. Ma perché? Ma quali miracoli ha compiuto? È vissuto senza mai mangiare. Va bene, ma una volta che muore il miracolo fallisce. Cioè? Se il miracolo consiste nel non morire e lo fanno santo solo dopo morto, la logica dice che João non sarà mai santo, perché o non muore mai e quindi non può essere fatto santo da vivo, oppure muore e lo fanno santo. Ma se muore, che miracolo è? Cioè, beh, ma mica hai detto che muoia di fame, scusa, se muore di infarto oppure schiacciato da un piede umano, ecco che la santità è assicurata. Un piede umano, eh? Cosa stai pensando? No, niente, niente. Ma io ho fama, uai. Salam, la frequenza nervosa del Radio Rock Ministro. Politico interno. Generale Sparhare, ricevuto in sua tenda deluxe, Premier di Repubblica Infedele di Italia. Argan fedele, rubisci vedere! Generale, fate vedere di Premier foto del giornalista italiano rapito che stanno bene, tutti convertiti di Islam, e poi fatto bere di te e congedato con tanti saluti e scarica di metra. E ora, notizie di sport. Campionato della pedazione sposi adulteri, quarta di finale. Che cosa succederà adesso? Quali conclusioni si possono trarre dagli eventi odierni nella fabbrica di polli? João sarà santo? L'acqua potabile tornerà a zampillare dai rubinetti o ci si dovrà accontentare dell'acqua di scolo? Questi e altri interrogativi troveranno la loro risposta domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo vaticinante allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.